Radio 24. Libera la voglia di fare. Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Come cosa vuol dire? Ma ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Farias alla buona per Ionita, poi occhio all'intervento il destro di Farias, finisce alto. Ci sono le proteste dei giocatori del Cagliari. Attenzione, adesso l'arbitro ha fatto il cenno del monitor, se non ho visto male. Ecco qua il gesto di nuovo. Calcio di rigore. È rigore, sì o no? Il pallone è dentro fuori. Mi racconta come ha vissuto l'episodio del VAR. Niente, ho aspettato che l'arbitro decidesse, ha dato rigore. Fortunatamente in porta abbiamo Buffon che è ancora il numero uno e quindi siamo fortunati per questo, ci ha tolto da un momento di difficoltà. Non sto a commentare la VAR come non commentavo l'arbitro, perché dopo alla fine la decisione l'ha presa l'arbitro e quindi ha dato rigore e abbiamo preso il rigore. Per quanto riguarda la VAR, credo che sia stato un ottimo esperimento perché noi in campo l'abbiamo vissuta con grande serenità, nel senso che c'è stato l'episodio del rigore dove io dal vivo ho avuto la sensazione netta che fosse rigore, però poi con grande compostezza, come ci è stato insegnato, abbiamo aspettato che Maresca andasse a controllare e quindi i ragazzi sono stati tranquilli senza fare troppe scenate e poi si è deciso giustamente per il calcio di rigore. Ci abitueremo, ovviamente è un po' strano e differente quel tempo di pausa che c'è, un po' di dispiacere quando va contro, però è così, una regola che sarà applicata da quest'anno, ci saranno cose a favore e cose a sfavore come stasera e noi lo accetteremo e andiamo avanti come ho fatto oggi. Siamo tornati, 800 24 00 24. Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, che è lì dietro il vetro insieme a Valeria Bernardi, contentissima, che adesso gioca alla sua Roma. Poi arriva Roberta Frisani, poi c'è Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Ciao. Pier. Sono qui. Eccoti lì, dopo lunghe e meritatissime vacanze ci siamo, ieri ti abbiamo già visto in prima linea e adesso... Il primo rigore col VAR. Sei un po' emozionato, sì. No, è giusto, sono sempre contento quando inizia la stagione. Da un lato insomma, vorrei stare in vacanza tutto l'anno, come penso tutti, e dall'altra però c'è adrenalina, è bellissimo, quindi insomma, sono stracontento. Il VAR mi emoziona il giusto, sì. Ma adesso ne parliamo lungamente. No, ma ho visto che si sono emozionati in tanti, adesso ne parliamo, c'è qui e abbiamo convocato e ha risposto presente Luca Marelli. Ciao Luca. Ciao a tutti. Ex arbitro, conoscente ciao. Profondo di tutto ciò che gira intorno a questo nuovo strumento meraviglioso che oggi viene celebrato sui giornali per il debutto di ieri, poi un rigore contro la Juve, secondo me ha debuttato come meglio non si poteva e ha messo a tacere mesi e mesi di dietrologie. Io ho qualche dubbio in realtà che ci si possa accodare a tutto questo consenso di cui oggi si è scritto sui giornali. Allora vi do i nostri riferimenti se ve li siete dimenticati in queste 6 settimane di domeniche senza tutti i convocati weekend. 800 24 00 24 per chiamarci in diretta ed intervenire fino alle 18.45. Oggi siamo in onda fino alle 18.45, ma poi da settembre torniamo fino alle 19. Oppure 349 238 6666 per gli sms e i whatsapp. Oppure potete seguirci sui nostri social, la pagina Facebook Tutti Convocati trattino Radio 24, oppure Twitter @ Tutti Convocati. Scrivete a proposito su Twitter le vostre domande perché Luca Marelli è qui proprio per togliervi tutti i dubbi sul VAR. Allora, carissimo Pier, io ad esempio dubito, anche se ieri devo dire è andata benissimo, no Luca, la prima giornata del VAR in Serie A, mi sembra bilancio assolutamente positivo. Utilizzata al momento giusto, nel modo giusto e soprattutto senza rubare troppo l'occhio degli spettatori, perché è stata usata anche in situazioni che non sono state attenzionate particolarmente dalle regie. Questo è un aspetto che chiariremo, però oggi ad esempio Pier, la Gazzetta fa un pezzo e dice si è chiusa un'era, quella del VAR Sport, io ho il sospetto che non sarà così. No, non sarà così e da un certo punto di vista, per motivi se vuoi anche pratici, la cosa mi fa anche piacere, nel senso che lunga vita alle trasmissioni di commento come la nostra in radio o come quella che faccio in televisione, a patto ovviamente che si faccia una discussione equilibrata e civile. Il sale del calcio e anche della discussione sugli episodi, cioè in ogni parte del mondo, magari in Inghilterra un po' meno, ma in Spagna stanno come da noi, quindi non dobbiamo sentirci in colpa se abbiamo voglia di discutere di un rigore o di un'espulsione. Non finiranno le polemiche, la mia sensazione è che le cose miglioreranno, semmai ci potranno essere, diciamo, gli effetti collaterali. Ieri se ne è visto già uno, cioè secondo me è possibile che ci saranno più rigori, perché secondo me certi contatti che magari a velocità reale visti dall'arbitro sfuggono all'occhio dell'arbitro, con quattro occhi invece che due, addirittura sei se ci vogliamo mettere anche l'assistente del VAR che sta nello stanzino con lo strumento tecnologico, potranno più facilmente diventare rigori. Cioè secondo me ci potrebbe essere, tra virgolette, un po' più di paura da parte dell'arbitro, del VAR principale, in pratica di quello che controlla le immagini e che ha il potere di dire all'arbitro guarda che secondo me c'è rigore, di andare a Succede qualcosa. Luca? È un effetto collaterale che dobbiamo aspettarci? È un rischio sicuramente, perché avendo a disposizione uno strumento tecnologico è ovvio che anche gli arbitri tendano a prendersi meno rischi, avendo la possibilità di poter rivedere. Sì, anche se dobbiamo dimenticarci che poi tutti i calci d'angolo, ad esempio, vengano sminuzzati frame per frame, perché altrimenti lì di rigori ne troveresti, credo, ad ogni calcio d'angolo. Assolutamente, infatti si parla di chiari errori. Proprio per questo motivo, proprio per evitare che vengano ceccate tutte le palle ferme, se vogliamo chiamarle così. Chiari errori su situazioni appunto molto particolari, abbiamo studiato, insomma, questi giorni le varie fattispecie sono quattro, quindi non certamente un fallo laterale o un calcio d'angolo. Però, guarda, i vantaggi secondo me sono tanti, se ne faccio uno banale. Ieri il gol di Mandžukić è un gol in perfetta posizione regolare, però il classico, io ieri sera ho anche incontrato a Torino in un noto ristorante, c'era sia l'arbitro che il VAR, e tra l'altro le conversazioni sono pubbliche, le società le possono prendere, per cui non c'è nulla da nascondere, c'è un'assoluta trasparenza, e mi confermava che ovviamente su un episodio come quello del gol di Mandžukić è stato fatto un controllo. Ovviamente la posizione di Mandžukić era perfetta, per cui non ce ne siamo quasi accorti, o non ce ne siamo proprio accorti noi da casa o allo stadio. Però se quel gol lì, se c'è un gol in fuorigioco, e arriva il VAR e risolve. Sì, dovrebbero essere azzerati i gol in fuorigioco. Assolutamente, anche perché allora, questo prima, possiamo dirlo. Prima, mica male, oh. No, assolutamente. Prima accennavo al fatto che le situazioni che sono state, virgolette, attenzionate, è un verbo che non mi piace per niente. Il VAR silente, qualcuno il VAR silente. Ieri ce ne sono state almeno 9 e nessuno, perché sono stati controllati tutti i 7 gol segnati, il calcio di rigore assegnato e la esecuzione del calcio di rigore. Perciò sono almeno 9 i casi in cui è stata utilizzata la VAR. A livello pubblico, possiamo chiamarlo, dirlo così, definirlo così, una sola volta, quando Maresca è andato a controllare direttamente sul video. Sì, c'è anche qualcuno che ci ha scritto, allora io lo ricordo, se volete 800 24 00 24, c'è chi ci sta scrivendo su Twitter, adesso vado a recuperare il tweet, ecco qui, Fabrizio che chiede: dopo il gol di Dybala in un labiale si vede l'arbitro che spiega abbiamo controllato, né fuorigioco né fallo di mano, è un utilizzo corretto? Assolutamente sì, perché tutte le reti vengono ceccate. Tutte vengono cercate, viene visualizzato dai VAR qualsiasi immagine che possa evidenziare una scorrettezza, un fallo, una irregolarità, un fuorigioco, qualunque fattispecie che possa concretizzarsi su una rete segnata chiaramente, su una rete sbagliata è inutile. Poi ho un paio di domande a bruciapelo e dopo il traffico sentiamo le risposte e apriamo anche l'altro dibattito, quello cioè se cancellerà o meno le polemiche. E la domanda a bruciapelo, perché oggi in tanti ne stanno discutendo, è se bisognava attivare il VAR anche sul raddoppio di Dybala, braccio, spalla, petto, chi lo sa, e se andava attivato il VAR in maniera esplicita, quindi non solo col controllo, diciamo, in remoto, anche sul gol del vantaggio del Napoli a Verona. 800-24-0024, dalle 18 seguiremo anche Atalanta-Roma, che apre il programma domenicale di questa prima giornata del campionato di Serie A. Torniamo subito dopo il traffico. Convocati. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Tutti convocati. Sono venuti a farci la scuola per il VAR, si dice così, no? E li ringraziamo per averci dato, poi ringraziamo Roberto Rosetti perché è stato un docente bravissimo di farci vedere poi questa nuova regola, che è una regola importante, una regola interessante, è una cosa nuova, importante, che dà tranquillità. Devo dire che avevo un po' di titubanze prima della riunione che abbiamo fatto insieme a Rosetti, che è stato molto chiaro, le norme che credo che siano molto semplici. Mi è piaciuto anche quello che ha detto il nuovo disegnatore Rizzoli ieri, che bisognerà cercare comunque di mantenere un gioco fluido, quindi che gli interventi dovranno essere limitati a situazioni veramente importanti, di errori gravi potrebbero veramente scomparire. È chiaro che siamo all'inizio, è chiaro che ci vorrà pazienza, credo, da parte di tutti. Sono curioso, ma credo che possa essere un buon aiuto. Tutti d'accordo, poi vediamo quando il campionato entrerà nel vivo. 800-24-0024 per Luigi Pardo. C'è qui con noi Luca Marelli, ex arbitro di Serie A, che mi deve rispondere allora se sul raddoppio di Dybala si poteva attivare in maniera esplicita il VAR. No, perché non c'è un'evidenza di errore. Non c'è un'evidenza d'errore, perché quello che è stato valutato con le immagini è stato sia il fuorigioco, cioè la posizione di partenza, sì, di Dybala. Sì, ma si parla soprattutto del tocco, petto, braccio, spalla. Può venire il dubbio vedendo le immagini, ma sono quelle secondo le condizioni al limite. Il VAR, cioè, può intervenire... Se anche potenzialmente può esserci in realtà stato un tocco di braccio... Non c'è evidenza. Non essendoci la certezza assoluta, quel gol viene convalidato. Assolutamente sì. Credo, il classico VAR silente, no? Esatto, perfetto. Che o anche VAR non VAR, nel senso che io immagino che anche su... No, il VAR viene utilizzato sempre sulle reti. Nel furgone io immagino non abbiano la certezza al 100% che non ci fosse un tocco di assolutamente il dubbio, ce l'avranno sicuro anche loro. Però semplicemente perché, sai, non è il fuorigioco che tu dici o è o non è, ci vorrebbero gli errori semplice. Gravi, esatto. E faccio un pronostico, non ho certezza di poterlo dire: quando vedremo l'arbitro andare fare quel famoso gesto e andare a vedere le immagini, poi secondo me 4-5, sì, ci sarà una correzione del suo giudizio, perché il VAR 95 su 100 ci dice il professor Taveri, che era l'altro giorno a Coverciano, assolutamente, perché è evidente che quando si arriva all'utilizzo esplicito del VAR è perché l'arbitro sul pulmino, che chiaramente ha il vantaggio delle immagini, ha visto quelle immagini in tempo reale e si è reso conto che c'è qualcosa di grosso, certo. Quindi sarà molto raro e molto difficile vedere che l'arbitro contraddica il VAR, poi, esatto. Anche se formalmente l'ultima scelta è sua, quindi lo stesso vale per il primo gol del Napoli. Però ragazzi, vi dico sinceramente, quello che ci sarà, secondo me, sicuramente ci sarà qualche momento di impasse e magari ci sarà qualche errore, e gli errori faranno... No, ma voi siete troppo buonisti, però io dico bene, difendo il VAR tutta la vita, ne abbiamo, poi Luca lo sa, ne abbiamo parlato per mesi. Ma io proietto il gol di Dybala in un Juventus-Roma, Juventus-Napoli, e vi dico che non basterà spiegare tecnicamente perché quel dubbio deve rimanere dubbio. Io, questo è il pronostico che faccio, poi magari sbaglio. Guarda, ha scritto un amico 349-238-6666 ed è una domanda secondo me interessante. Le decisioni prese con il VAR faranno giurisprudenza sportiva, ovviamente, o lo stesso episodio potrà subire decisioni anche opposte? E io penso alle gomitate, ad esempio, che portano il cartellino rosso. Sulle gomitate sarà abbastanza difficile, perché comunque è codificata il cartellino rosso per la condotta violenta. Sicuramente sui calci di rigore abbiamo visto quest'estate qualche sbracciata, e se ne vedo tante, no? Sì, ne abbiamo vista una con Federation Cup, ecco, che è stata punita col cartellino giallo, ma lì si tratta di incapacità dell'arbitro di leggere l'azione, cioè Marciniak lì che ha combinato veramente un pasticcio colossale. Lì era comunque cartellino rosso, in quel caso non si parla di valutazione differente, si parla semplicemente di un errore, che l'errore dell'arbitro può essere sia in presa diretta che anche davanti alla VAR, se non sono ben capito cosa è successo. Lì francamente è abbastanza inspiegabile quello che ha deciso Mercini anche durante la Confederation Cup. Per quanto riguarda episodi diversi, sì, perché ovviamente è la sensibilità dell'arbitro, altrimenti non si parlerebbe più di valutazione ma di semplicemente di rilevazione. Ma infatti guarda, la cosa dice Luca è importantissima, cioè noi dobbiamo uscire da un equivoco, cioè non è che la PlayStation, quando giochiamo alla PlayStation c'è una sorta di idea di un arbitraggio oggettivo, no? Nel senso che il computer dice che fallo non è fallo e noi ci fidiamo più o meno di quello che succede alla PlayStation. Qui comunque c'è l'elemento umano. L'elemento umano è chiaro che a fronte di una quantità di immagini e quindi della possibilità di rivedere le cose, è chiaro che diventa, no, ha più strumenti per poter arrivare a una valutazione adeguata. Però resta, poi, sempre un elemento resta umano. Poi un uomo, cioè, che guarda le immagini. Il famoso rigore di Sciglio, sì. Juve Milan, per fare un discorso, oppure... No, ma c'è stato spiegato che non sarebbe nemmeno stato vagliato. Appunto, assolutamente, appunto. Perché si tratta di una valutazione. Perché si tratta di una valutazione, cioè, voglio dire, di più uomini, tra l'altro, perché c'era anche l'addizionale non ci sarebbe più stato, e quindi... Questa componente, guarda, a me tu sai che la cosa sulla quale insisto da tempo... sono le cose oggettive, le cose metriche. Io sono felice perché spero che non vedremo più gol in fuorigioco. Tra l'altro mi hanno spiegato un'altra cosa molto interessante, che ci sarà una particolare attenzione da parte di arbitri e assistenti a non fermare il gioco, a lasciar proseguire l'azione in situazioni di fuorigioco. Sì, perché? Per rivederle dopo. Per rivederle dopo, per non fermare l'azione, perché che succede? Gol con quando parte una situazione di fuorigioco non c'è problema, perché stai fuori gioco, lo vedi, fuori gioco il gol viene annullato. Ma il caso contrario, cioè il momento nel quale un fuorigioco che non c'è viene sanzionato, quello è più un problema. Allora mi hanno spiegato praticamente che ci sarà un istante in più di attesa nell'alzare la bandierina. Ah, insomma, dai, li fanno andare fino in fondo e poi ci, esatto, pensano qui davanti alla televisione. Allora, io saluto Massimo Giletti, convocato come tifoso juventino. Ciao Massimo, però c'è Ludovico da Taranto, perdonatemi tutti, che sta aspettando da qualche minuto. Allora, Ludovico, ciao. Buon pomeriggio, grazie per la convocazione. Allora, quanto al reparto difensivo bianco-nero, si fa un gran parlare dell'ampia gamma di scelte in difesa della Juve, però andando ad analizzare per ordine, ci sono Barzagli 36enne, Lichtstein 34-35, Chiellini 34, tutti e tre alle prese con postumi di fortuni vari. Poi Rugani, abile, arruolato, ma viene naturalmente inserito per gradi, solo per non bruciarlo in quanto giovane. Sono passati due anni, insomma. Sì, praticamente due anni. Benazia all'età giusta, però parrebbe l'ombra di quello che abbiamo abbinato. Dai, a Roma, ne serve uno, ne serve ancora forse due. Ecco, però io volevo chiedervi un dato, conferma di un dato, ma i famosi Blanco, Moreno e Romagna, un anno fa furono ceduti a titolo definitivo ad un club elvetico e al Novara, oppure sono stati dati solo in prestito? Perché parevano avere le qualità in proiezione futura per essere i due centrali di classe, con la Bonucci. Allora ti devo dire che ci informiamo e strada facendo ti diamo risposta. Grazie, Ludovico. Romagna in prestito. Romagna in prestito, sì, ci viene detto, e poi adesso verifichiamo il resto. Massimo Giletti, ciao. Ciao. Allora, prima pagina del Mattino di oggi. Il primo miracolo VAR, rigore contro la Juve. A te. Vabbè, guarda, io credo che sia giusto, no, alimentare sempre le tensioni, le emozioni, scrivendo anche una serie di inesattezze totali, perché se guardiamo la storia di Juve-Napoli troviamo mille situazioni l'inverso di tutto. Mi ricordo un clamoroso caso di un intervento in area juventina che non era assolutamente rigore, venne concesso rigore a Napoli, però si dimentica di quello che si subisce. Il 3-1 in Serie B, va detto, fu un arbitraggio incredibilmente, ma parliamo dell'anno in cui c'era la Juve in B. Adesso al di là delle cose campanilistiche che ci stanno, va bene, poi c'è chi alimenta un po'. È questo che non mi piace. Chi alimenta le tensioni non mi è mai piaciuto nella vita. Quando tu le alimenti su già un qualcosa che di per sé porta sempre a scontri, a discussioni, un minimo di responsabilità c'è anche lui. Oh, però è vero che questa mattina, secondo me, un tifoso della Juve si è svegliato più leggero, perché in una situazione normale comunque quel calcio di rigore sull'1-0 sarebbe rimasto lì a galleggiare nell'aria, Massimo. Ma quanti, no, rigori? Dunque, io non so l'altrano la Juve quanti rigori ha avuto a favore, mi sembra pochissimi, pur essendo stata in area so quanti. Meno di tanti altri, se no non ho molto pochissimi, vi assicuro che pochissimi, meno rispetto ad altre squadre tipo la Roma e altre che hanno avuto un bel po' di rigori anche molto spesso sui quali si è discusso. La VAR aiuta, secondo me aiuta, certo. Io, insomma, la tecnologia non l'amo su queste cose. Cioè, Quindi tu non la vorresti? Ma io non trovo che ci saranno ulteriori grandi discussioni, perché poi il calcio è bello proprio anche perché alimenta, no, la c'era rigore, non c'era rigore. Non sono un amante al momento di questa cosa elettronica, lo sono sul gol, non gol, perché quello è qualcosa di evidente. Sono più perplesso su quest'altro tipo di scelta. Allora, un amico scrive: il VAR limiterà la sudditanza psicologica verso le grandi ed è dunque presumibile una classifica più corta alla fine, Pier? Secondo me no, anzi io ieri sono andato a dormire pensando che il divario tra le grandi e le piccole anche quest'anno è desolatamente grande. Beh, il divario è enorme, poi se vuoi adesso cominciamo a parlare anche della parte tecnica, perché ieri abbiamo visto le due grandi favorite, io ho un'idea abbastanza precisa, però insomma vabbè, penso onestamente che la... Penso che la tecnologia aiuti, sicuramente ci saranno polemiche, ripeto, le situazioni metriche, quelle mi interessa molto, perché quanti gol in fuorigioco vengono dati in un anno? Se noi ci mettiamo d'accordo sul fatto che esiste comunque una discrezionalità dell'arbitro, e quindi l'arbitro ha l'ultima parola su un contatto, se un contatto è realmente da rigore o non è da rigore, su quanto è pesante, su questa roba qui... Volevo capire però ieri su Verona-Napoli... Sì. Il portiere è stato toccato o no? Aspetta, perché... che ti facciamo rispondere dall'arbitro, Luca. Dunque, no, perché vi dico solo questo: perché ho sentito due versioni contrastanti. Una è stato toccato in una trasmissione, e in un'altra erano sempre arbitri a parlare. Vorrei capirlo da voi, perché io poi mi sono perso. Si tratta di una valutazione, a mio parere non c'è assolutamente nulla, non ci sono perlomeno gli elementi per annullare la rete, mancavano i presupposti per l'intervento del VAR e perciò la rete è stata convalidata sulla base della valutazione, in questo caso, dell'arbitro, non c'è nessuna rilevazione. No, anche ognuno può tenersi il suo pensiero, ma così è. Ma anch'io l'ho visto, che secondo me non c'era tutto questo dramma, però poi alla fine in una trasmissione si è detto che Koulibaly, se non sbaglio, l'ha toccato, per cui andava annullato. Su questo, ripeto, per me non c'era nessun tipo di... Ma su queste fattispecie le polemiche rimarranno, cioè attaccarsi, ma è normale. Però... Ma la dietrologia del VAR è stata cancellata in due minuti, cent'anni di queste dietrologie, è chiaro, e sono contento da un lato. Però ripeto, non credo che cancelli tutte le polemiche. Sì, il bar sport non lo chiude. Io ripeto, ho avuto ieri la sensazione, commentando Juve-Cagliari, e in qualche modo me l'hanno poi confermato anche i diretti interessati, che c'è stato per esempio il controllo sulla posizione di partenza di Mandžukić sul gol dell'1-0, che era assolutamente corretta, e se non fosse stata corretta quel gol sarebbe stato annullato. Quindi teniamoci secondo me il bicchiere mezzo pieno è quello. Poi sicuramente anzi, il fatto che ci saranno meno errori e che avremo il supporto tecnologico farà sì che nelle situazioni nelle quali ci sarà ancora da discutere, si discuterà se possibile forse anche di più, perché il telespettatore, il tifoso dirà: ma come, l'arbitro aveva le stesse immagini che ho io e guarda, lo tocca, no? Faccio per dirti. Sì. Quindi sarà l'errore o il presunto errore sarà ancora più difficile da accettare. Però c'è un dato positivo, il fatto che abbia per esempio da Juventus protestato, cioè l'accettazione, sì. E quello mi sembra un passaggio interessante. Anzi, secondo quanto hanno raccontato i bordocampisti, c'è stata la consegna, eh? Perché Allegri ha detto: no, è calcio di rigore. Tanto sì, a questo punto, ma se lo prendi a due minuti dalla fine, Juve-Napoli, sì, sì. Juve-Inter, ma io è quello che dico: aspettiamo che si entri nel vivo. Aspettiamo un po' tempo, voglio capirlo con calma. Io mi prendo invece l'ultimo minuto con Massimo Giletti per chiedergli quanto gli è piaciuta la Juve ieri. Se ad esempio, se nel dilemma di questi giorni, cioè favorita la Juve o il Napoli, dove si colloca? Ma sai, la Juve ieri aveva Cardiff sulla coscienza, un po' diciamo scheletri psicologici, Bonucci, Dani Alves, eccetera, da mandare via. E quello che è importante era il risultato. Partire favoriti è sempre importante, sempre pesante. Il Napoli sono anni che è lì, ha una squadra molto, molto buona, ma la Juve credo che ha sempre qualcosa in più. Poi da qui alla fine del campionato saranno i numeri che lo diranno, credo che la Juve arriverà anche però a qualcosa in più, come però a qualcosa in più. Certo. Beh, è la come prima volta che Marotta a due settimane alla fine del mercato dice che ancora si può fare di tutto. Se lo dice lui, non manca solo la lì, ciliegina, come è capitato nelle ultime estate. Grazie Massimo Giletti. Ciao Massimo, grazie. Ciao. Vi leggo qualche messaggio. 349-238-6666. Nel rugby le immagini della moviola vengono mostrate nello stadio a tutti gli spettatori. Sì. Il calcio può permetterselo? Secondo me al momento no. Al momento no. Magari in futuro sì. Magari in futuro sì. Chi lo sa. E poi ancora per chi segue l'NFL è tutto chiaro, ovvero c'è massima chiarezza su quali situazioni tecniche sono analizzabili e quali no. Beh, noi ci dobbiamo arrivare, con calma, siamo solo all'inizio, prendiamoci qualche mese. Comunque non è che nel football o nel rugby non gli arbitri non sbaglino anche con la tecnologia. No, assolutamente. Anche, le partite le seguo, ovviamente non ho la stessa passione e la stessa, tra virgolette, competenza, però voglio dire, è chiaro che pure lì ci sono degli errori, quindi l'elemento umano, bisogna ricordarcelo bene, l'elemento umano rimane, l'arbitro decide, è un uomo e può sbagliare, e la cosa farà ancora più rumore, anche con l'aiuto della tecnologia, però secondo me la quantità di situazioni che verranno risolte, la quantità di errori in meno che ci saranno alla fine di un campionato dovrà farci essere felici, perché secondo me ci eviteremo tanti tanti errori e tante situazioni. Ieri quel rigore c'era, poi d'accordo, non è un rigore di quelli proprio clamorosamente violenti, però quel rigore c'era, c'è perché c'è il contatto e quindi è giusto che sia stato fischiato. Allora, dobbiamo fermarci un minuto, torniamo subito 800 24 00 24, poi abbiamo Alessandro Vocaleri, direttore del Corriere dello Sport, gli ultimi minuti prima di Atalanta-Roma, abbiamo tutte le vostre domande, insomma abbiamo davvero tanta carne al fuoco. Tutti convocati. Convocati. Intanto Marcos Alonso ha portato in vantaggio il Chelsea contro il Tottenham 1-0, 35esimo del primo tempo. 800 24 00 24. Simone. Sì, buongiorno. Vai. Grazie per la convocazione. Dai. Niente, volevo portare un punto di vista da parte dell'arbitro, quale sono a livello dilettantistico. Non vorrei che però questa VAR qua annullasse la personalità dell'arbitro. Bravissimo. Perché il rigore di ieri era clamoroso e l'arbitro aveva tutta la possibilità di vederlo in tempo reale, non aveva ostacoli davanti. Credo quasi che non l'abbia visto in realtà, proprio non l'ha visto, perché stava anche quasi per far riprendere il gioco pur tra mille tentennamenti, Simone, almeno io questo è quello che ho percepito. La percezione mia era che proprio non c'era nessun dubbio, l'ha visto Allegri dalla panchina, l'abbiamo visto tutti dalla televisione e lui aveva il campo aperto. Non vorrei che, ragazzi, rigore per la Juve, abbiamo visto le immagini, ne risente un po' la personalità dell'arbitro. E un'altra cosa, l'ultima, la VAR non c'entra niente, però quando un giocatore davanti all'arbitro a mezzo metro lo manda a flirtare al mezzo a quel paese, mi piacerebbe che si prendessero i provvedimenti. Sarebbe bellissimo, Luca. Vabbè, questo è un vecchio discorso, ormai lo sentiamo da quando Udinese Roma, Totti, lo ricordiamo, ormai sono passati quanti, 15 anni credo. Guarda, per quanto riguarda discorso, però, scusami, però un discorso giusto o sbagliato che sia, che riguarda la suscettibilità maggiore o minore degli arbitri. Sappiamo che da questo punto di vista questa è una componente, parliamo prima del fattore umano, questa è proprio una componente umana. Nel senso che ci sono, esattamente come sui nostri posti di lavoro o nelle nostre famiglie, persone e persone, e qui non c'è una regola. Ci sono arbitri che si voltano dall'altra parte perché hanno un approccio più morbido e arbitri che sono invece più suscettibili e che quindi prendono provvedimenti. È chiaro che non è giusto in assoluto, no? Perché un baffa è un baffa, sì, però fa parte di quella fa parte della bellezza del gioco, fa parte dell'umanità del gioco. Allora, aspetta che saluto intanto Alessandro Vocalelli, direttore del Corriere dello Sport. Ciao direttore, buon pomeriggio. Ciao, grazie, ben trovati, buon campionato, buona domenica, buon tutto. Vi faccio sentire al volo una battuta di Monchi, microfoni di Premium Sport. Direttore, credo veramente che già abbiamo parlato troppo su Mare, no? Credo che oggi è un dia importante perché inizia il campionato e dobbiamo parlare di giocatori che sono qui. Direttore, guardi, noi quindi siamo la buttata in corner, Alessandro Vocalelli, la domanda era su Marez. Sì. Era su Marez, che è, non so se è un sogno o un obiettivo di mercato in questo momento. È un tormentone di mercato, sì. Soprattutto, perché voglio dire, ha ragione Monchi, dobbiamo parlare di quelli che sono qui, nel senso che sarebbe stato il caso di parlare anche di Marez, perché secondo me doveva essere lì, nel senso se tu vendi Salah a fine giugno, insomma, stiamo parlando ormai di un mese e mezzo fa, due mesi fa, e forse sarebbe stato il caso di cominciare il campionato con un sostituto, diciamo, designato e all'altezza del giocatore che era andato via. Oggi la Roma parte comunque. Gioca De Frel. Gioca De Frel, che è un giocatore che la Roma voleva l'anno scorso a gennaio, quest'anno a gennaio, anche in presenza di Salah, per cui evidentemente lo riteneva ed è sicuramente un buon giocatore, ma non il sostituto di Salah. Io credo che la Roma sia comunque un'ottima squadra, però diciamo certe operazioni di mercato forse si potrebbe tentare di farle prima, perché oggi, ripeto, la Roma gioca senza Rudiger, quindi con un Juan Jesus che era la riserva quantomeno di Rudiger lo scorso anno, gioca con De Frel che era un surrogato ma non l'alternativa di Salah, per cui insomma, ecco, forse la Roma, che è un'ottima squadra e che può ambire a cose importanti, doveva pensare un po' più. È incompleta. Allora io leggo le formazioni, ne approfitto. Aspetta, non è incompleta, ragazzi, questa roba qui è assolutamente senza precedenti, perché nella storia, quando tu arrivi terzo e quindi hai il preliminare, ormai lo sappiamo, dall'anno prossimo quarto, le società italiane aspettano il preliminare prima di fare investimenti. Ma non è la Roma, non però è il caso della Roma. La Roma è arrivata seconda e essenzialmente ha pensato soprattutto a vendere i propri giocatori. Abbiamo scoperto, cioè, che c'era una situazione progressa, appunto, certo, da sistemare. Non è fisiologica questa cosa. No, allora vi leggo le formazioni. Atalanta-Roma comincia fra 20 minuti. Atalanta al 3-4-1-2, Berisha in porta, poi Toloi, Palomino, Masiello sulla linea difensiva. I quattro di centrocampo sono Etebor, Freuler, Cristante e Gosens. Poi c'è Kurtic che è segnato come trequartista alle spalle di Gomez e Petagna. Roma 4-3-3, Alisson in porta, Bruno Perez, Manolas, Juan Jesus e Kolarov sulla linea difensiva, Nainggolan, Rossi, Strootman a centrocampo, De Frel, Dzeko e Perotti da destra a sinistra nel tridente. Allora io il tema che voglio lanciare è questo, perché oggi qualcuno l'ha anche scritto tra le righe: di Francesco c'è già una strana aria che tira intorno al tecnico, che con eleganza però ha evitato di tirare in ballo l'argomento del mercato incompleto. È possibile, direttore? No, non è possibile, perché secondo me una eventuale messa in discussione di Francesco dovrebbe essere stessa una messa in discussione dell'operato della Roma, per cui credo che discutere di Francesco in maniera fine a se stessa sarebbe ingeneroso e un obiettivo sbagliato. Se la Roma oggi si presenta, ripeto, in maniera incompleta e in maniera incomprensibilmente incompleta, e ha ragione Pierre, io credo che vada tirato in ballo anche l'operato di Monchi e dei dirigenti, cioè non può essere che c'è chi ha la patente di immunità e chi invece per colpe non sue magari debba finire sotto processo. No, ma anche perché Di Francesco arriva alla Roma con un background, un curriculum veramente molto importante, superiore a quello che aveva Sarri quando dall'Empoli è arrivato al Napoli, nel senso che comunque Sarri aveva fatto buone cose a Empoli, ma certamente Di Francesco è più avanti dal punto di vista del percorso professionale. Ha fatto una serie di annate di altissimo profilo, una addirittura strepitosa, con una squadra che sicuramente ha una società molto forte alle spalle, ma insomma veramente viene, cioè, è uno degli allenatori emergenti di indiscutibilmente, senza se e senza ma, del nostro calcio, per cui ci vuole secondo me da parte dell'ambiente una razionalità, un equilibrio che è importante. No, io sai che c'è capisco dire meno, sono d'accordo con il direttore, capisco meno alcune cose di mercato fin qui. Perché soprattutto perché la Roma viene, come dice Pier, dal secondo posto dell'anno scorso, che a detta dei dirigenti, non nostro, ti permette di pianificare, di sapere che c'è un tesoro importante da poter spendere, e poi perché viene comunque, questo non si può non dire, viene da 6-7 anni senza successi, per cui ogni volta diventa importante cercare di far bene e di partire bene. La Roma adesso ha l'Atalanta, io credo che comunque sia un test abbordabile per la Roma, e poi l'Inter. Tu lo ritieni abbordabile? Ci arriva, diciamo, in maniera Non completa come poteva e doveva essere. Sì, tu lo ritieni abbordabile il test, poi lo vediamo, oramai manca un quarto d'ora. Io credo che invece sia una trasferta assolutamente insidiosa. Complicatissima, avendo però... visto alcune partite della Roma quest'estate, perché poi io vi ho ascoltato, però è vero che Monchi arriva con un curriculum superiore a quello di Di Francesco. È più facile immaginare che sia il tecnico l'anello debole se dovesse, insomma, cominciare non benissimo la Roma. Però voglio dire, tu devi oggi siamo qua tutti a celebrare chi più chi meno Sarri, ma giustamente, perché se lo merita. Cioè Sarri è uno che era arrivato dopo aver mostrato, dopo tantissima gavetta, e sembrava un provinciale, no? Ma un provinciale nel senso assolutamente non offensivo del termine, cioè uno che aveva sempre lavorato in provincia. Di Francesco è uno che ha allenato una squadra provinciale di nome, ma l'ha allenata con dei risultati e con un'idea di gioco veramente molto alta, perché il Sassuolo in questi anni ha giocato sempre bene a pallone, ha provato a imporre il suo gioco, ha battuto spesso le grandi squadre, cioè veramente stiamo parlando di un altissimo profilo, per cui io pure penso che ci sia un po' troppa critica su Di Francesco. Però anche perché questo io lo dico un po' fuori dai denti, l'anno scorso Spalletti è passato per quello che andava via per colpa dell'ambiente, dei giornalisti, delle critiche, io credo che invece Spalletti alla fine non era convinto, diciamo così, della capacità di spesa della Roma e del progetto da poter impostare in futuro. E credo che anche per questo la Roma avrebbe dovuto smentire questo dubbio, questo piccolo sospetto che c'era sul fatto che appunto anche Spalletti magari se n'era andato per questo, perché la storia che lui andava via per colpa dei giornalisti cattivoni chiaramente era un po' una balla, un po' un pretesto. Ha per cominciato cui... a litigare anche a Milano, se ti può, appunto, se ti può rasserenare. La Roma secondo me aveva tutte le possibilità di impostare questo mercato dopo aver anche ceduto, secondo me in maniera comprensibile, perché non è che dobbiamo essere legati al calcio in cui non si vende nessuno. Tu hai fatto 50 milioni con Salah, 38 con Rudiger, 25 con Paredes, hai fatto 100 milioni di euro. Sì, io penso spazio, che c'è spazio che per spendere. L'obiettivo sia quello poi di partire per il campionato in una maniera piuttosto completa. Anche se è stato un virus un po' diffuso, anche la Juve incompleta, la Juve che solitamente ci ha insegnato in questi anni a essere maestra di programmazione, parte, e io credo che dietro ragionevolmente non sia più forte dell'anno scorso. Posso dire che probabilmente è più debole. Aspetto. Ho davanti qui la foto, una foto che tra l'altro ha twittato il profilo ufficiale della Roma, mi fa un po' effetto vedere Totti in giacca e cravatta che accompagna la squadra. Questa credo sia una delle immagini comunque simbolo di questa giornata, perché si può essere più o meno amanti di Totti, più o meno legati all'ambiente della Roma e di Roma, ma io credo che veramente siamo di fronte a una giornata storica. Cioè, Totti ha rappresentato un campione unico proprio per la sua dedizione totale a questa causa. E al di là dell'immagine l'altro giorno a Ponza vicino all'arco naturale, abbiamo visto tirare quel pallone lì con precisione, e si capisce che avrebbe ancora voglia di giocare, perché sicuramente quella non gli passerà mai. Insomma, adesso comincia per lui una nuova vita nella quale io sono convinto che poi è un ragazzo intelligente che potrà far bene. Chiaramente è ancora il ruolo abbastanza vago, abbastanza difficile. No, non abbiamo ancora capito, ma c'è tutto il tempo e l'hanno detto. Lui, l'hanno detto con chiarezza, quindi credo che questo sbomberi il campo. Bene, proprio per ciò che Totti rappresenta, per la quasi unicità del caso Totti, è un bene, uno strabene che sia rimasto alla Roma. Questo proprio non c'è dubbio. No, ma assolutamente. Pier, siamo in ritardo sul traffico. Allora saluto Alessandro Vocalelli e lo ringrazio. Grazie direttore. Grazie a voi, ciao a tutti. Ciao. Prossima. Allora c'è chi mi segnala, giustamente, mi sono dimenticato di sottolinearlo, che non gioca Spinazzola nell'Atalanta e non è nemmeno in panchina. Quindi uno dei grandi casi di mercato. Ne parliamo dopo le 18 con Pierpaolo Marino degli ammutinati del mercato, perché ieri gli allenatori se la sono presa, l'hanno spiegato senza troppi giri di parole. 800 24 00 24, torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, Paolo da Firenze. Paolo. Sì, buongiorno. Vai. Buongiorno. Vai, buongiorno a te. Buongiorno. Allora, volevo sollecitare Pierluigi Pardo su due cose, visto che ho la grande fortuna di parlare con chi se ne intende davvero. Una su Pioli, mi sembra che prima diceva di Francesco che che ha vinto contro squadre importanti. Ecco, mi sembra che Pioli abbia la tendenza a perdere le partite importanti. Mi sembra che i derby anche nelle annate buone della Lazio li abbia persi. Mi sembra che con l'Inter non abbia vinto scontri diretti. Chiedo aiuto a lui su questo perché mi preoccupa molto in un'annata dove forse i giocatori comprati a Corvino possono essere buoni, ma avrei avuto più coraggio su allenatore, avrei preso un emergente in ascesa. Io sono abbastanza ottimista. Aspetta, una per volta, Paolo, dai, vai. No, io sono abbastanza ottimista sulla Fiorentina, nel senso che mi sembra una situazione, ed è ovviamente l'augurio che faccio di voto di Viola, un po' simile a quella della Lazio dell'anno scorso. Cioè un'estate complicata, di quasi di rassegnazione, di polemiche, ma poi la squadra non è male, non è così male. Secondo me si è venduto sicuramente tanto, ma si è venduto bene, sinceramente. Le cifre sia per Vesino che per Bernardeschi sono cifre all'altezza, si sono presi dei ricambi interessanti, qualche incognita c'è. Sull'allenatore, l'allenatore è un allenatore di rendimento, non è certamente, l'ha dimostrato l'anno scorso all'Inter, uno che ha fatto il salto di qualità per giocarsene in un grandissimo club, però per una dimensione di una squadra che punta, insomma, oggettivamente a un quinto o sesto posto, perché di questo può andare benissimo, parlando, può andare mi benissimo. Sembra che vada bene, insomma. Dai Paolo, vai con l'altra domanda, poi ce n'è anche una via SMS, vai Paolo. L'altra domanda non so se può rispondere, perché mi rendo conto che sono forse... Vabbè dai, falla. Aziendali è sui colleghi Callegari, Calcagno, Pistocchi... E su quello che è scritto e detto. Cosa vuoi sapere? Non ho capito. No, volevo sapere così se su qualche organo di stampa si era parlato di un'epurazione sollecitata. Però, insomma, questo mi sembra. Sollecitata da chi? No, guardi, allora poi se volete una volta chiamate Brandi e ne parlate con lui, perché mi sembra certamente la persona più adatta a rispondere su questi temi. Callegari ieri sera ha fatto Verona Napoli ed è tornato il suo grande amore, che sono le telecronache, che si dividerà le partite importanti con me, ovviamente poi in Champions con Piccinini, quindi mi sembra, oggettivamente l'ho visto l'altro giorno, mi sembra un uomo molto felice, anche perché le telecronache sono una cosa bellissima. E sul resto, Michela, cioè sono scelte che vengono fatte dall'azienda, che vengono fatte dal direttore, ma insomma, francamente non, sicuramente non c'è nessuno da fuori che detta le regole. Ecco, questo allora, proprio mi potesse cascare un piede. Allora, poi ti chiedono cosa ne pensi di Chiesa Simeone, se è la coppia più promettente della Serie A. È una bella coppia. Simeone l'anno scorso ha fatto vedere cose molto importanti. Chiesa è un giocatore, a me di Chiesa colpisce tantissimo la sua assoluta personalità, cioè ha fatto delle cose l'anno scorso, qualcuna anche un po' sopra le righe, che però sono atteggiamenti da giocatore straconsapevole della sua forza, oltre al tasso tecnico. Quindi, ma io ti ripeto, a me la Fiorentina piace, Fiorentina e Torino mi sembrano due squadre che quest'anno possono fare... La Fiorentina nelle ultime due settimane ha preso un po' forma, perché obiettivamente fino a un paio di settimane fa era difficile leggere tra le righe quale potesse essere. C'è Benassi, Benassi è un grande acquisto, secondo me. Giocatore, secondo me, appunto, mi viene in mente la situazione della Lazio un anno fa. Ti ricordi la Lazio con gli 11 abbonati durante l'estate? Delle volte si creano delle situazioni dal punto di vista proprio anche mediatico dell'ambiente che sono certamente negative, ma che poi alla fine magari diventano quasi un vantaggio, perché partire a fari spenti si può dare qualcosa. Sì, non sempre un male. Allora, abbiamo tante domande via Twitter che ci state mandando sul VAR. Approfittiamo di questi 5 minuti con Luca Marelli. Allora, Massimo Sciortino chiede il VAR e la regola del vantaggio. Cosa succede? Me l'hanno chiesto in tanti in questi due giorni. Sostanzialmente il vantaggio nelle vicende, nelle fattispecie in cui viene utilizzata la VAR si annulla sostanzialmente, a meno che dal vantaggio immediato, per esempio un calcio di rigore non assegnato, nasca la rete comunque della squadra che avrebbe usufruito del calcio di rigore. Nel caso di ieri, facciamo un'ipotesi relativa alla partita di ieri: dopo l'intervento irregolare in area di rigore, un giocatore del Cagliari prende il pallone, lo tira in porta e segna. In quel caso ovviamente non si torna neanche a riguardare l'episodio, perché non avrebbe senso, sarebbe soltanto una perdita di tempo, si fa soltanto il check sulla regolarità della rete. Per quanto riguarda invece il vantaggio in generale, rimanendo invariato, perché ricordiamoci questo, le partite di calcio rimangono per gli arbitri interpretazione, non sono più, non, certo, sono, non ci sono degli schemi rigidi, ecco. Poi è vero che gli arbitri VAR non hanno a disposizione l'ingrandimento delle immagini, verissimo, è vero, quindi hanno tutti i segnali di tutte le immagini dentro quel benedetto furgone o stanzino o quello che è a seconda degli stadi, tutti, sì, tutti gli immagini, tutte, tutte le immagini sono tutte uguali, quindi dimenticatevi che esista un'immagine che salta fuori mezz'ora dopo, no, per loro, magari voi in TV la vedete mezz'ora dopo, ma per loro ci sono tutte, ma non possono ingrandirle. È vero che alcune fattispecie dovranno analizzarle a velocità normale, verissimo, e non con replay, proprio per evitare, sì, che ci sia l'effetto frame per frame. Esatto. E poi un altro ancora, c'è il rischio che l'arbitro perda sicurezza e questo sia la rovina del calcio, perché l'arbitro deve avere sicurezza. Esattamente il contrario, perché gli arbitri acquisiranno sicurezza dato che avranno la possibilità di avere una seconda chance. Poi così. Andrea dice: si può spiegare che nessuno chiama il VAR, ma è il VAR che segnala all'arbitro se c'è qualcosa che non va e non esiste il percorso contrario? Non l'ho capito, scusa. Cioè il VAR che segnala all'arbitro viene a guardare e non esiste il contrario, o l'arbitro invece no, l'arbitro può andare tranquillamente a controllare l'immagine se dovesse avere un dubbio. Hai capito, Pierre? Ma c'è, no, ma ho capito, e guarda, no, noi facciamo la guida, perché poi ce ne saranno, ci sono più degli svantaggi, ci sono 4 occhi invece che 2, addirittura 6 occhi, perché poi c'è anche l'assistente del VAR, c'è il vantaggio di avere le immagini e ripeto, non risolveremo tante situazioni, poi ci saranno dei casini sicuramente, perché c'erano già prima, e magari il fatto che questi casini saranno legati oltretutto al fatto che si sono potute avere le immagini, li renderà ancora più casini di prima, questo è possibile, però in assoluto secondo me già ieri, guarda, ieri io ho fatto Juve-Cagliari, ieri sono state risolte delle situazioni, quel rigore ragazzi non l'avevano dato, quel rigore lì che era saltato, quel rigore lì che c'era. Io ho un'altra domanda, gli arbitri più bravi, gli internazionali, saranno mandati in campo o davanti al televisore? Sicuramente ci sarà più alternanza, l'abbiamo già visto ieri, perché Verona-Napoli ha designato Fabbri per Verona-Napoli l'anno scorso, sarebbe stato praticamente impensabile, sia per la filosofia di Messina, sia perché probabilmente ci sarebbe stata meno sicurezza, meno tranquillità a mandare in campo un arbitro giovane come Fabbri per una partita che è comunque considerata in prima fascia, perché le squadre, le big, cosiddette io big, però leggo i VAR di oggi, allora Inter-Fiorentina ci sarà Guida, Atalanta-Roma c'è Banti, poi c'è Orsato a Bologna-Torino, Di Bello a Crotone Milan, esatto. Ti interrompo, ecco, poi... Giovanni, posso dirti tranquillamente, vai, che ci saranno tutti gli arbitri, perché oggi sono fuori tutti, come saranno fuori tutti nelle prossime giornate. Anzi, ti do... che però non è un caso che siano lì. No, beh, però Orsato, considera questa gente qua. Ma beh, considera però che ci sono fuori, sono stati disegnati comunque Tagliavento, D'Amato, sono comunque arbitri di primissima fascia che vengono comunque utilizzati. Ti dico di più, e questo sarà comunque una bellissima esperienza per gli arbitri giovani. Nei turni infrasettimanali, visto che ci sono numeri molto risicati, ci saranno quarti ufficiali, quarti uomini in Serie A di Serie C. Cioè saranno ragazzi che solitamente arbitrano a Faenza o a Sesto San Giovanni che andranno a San Siro. Di Serie A. Vabbè. E avranno il ruolo ovviamente di tutti, il ruolo diciamo meno importante. E sì, la tendenza è molto chiara. Meno importante però, finché non si fa male l'arbitro. Certo. Entra l'arbitro in Serie C. Che considera che comunque ti posso dire che l'80% degli arbitri Serie C possono arbitrare quasi tutte le partite Serie A. Ma noi siamo sicuri. Ma c'è il GR, Pier, c'è il GR, siamo già quasi lunghi. Per gli arbitri è un sollievo questa roba. Sono per d'accordo con te. È la dimostrazione, perché... Avrei pagato per averle. Ecco, capito, perché voglio dire che nella vita ci sta di sbagliare. E spero che tutti noi che facciamo comunicazione sottolineeremo e ci renderemo conto della differenza che esiste fra adesso e prima, perché un conto è valutare le cose in tempo reale anche se sono allenati eccetera, e un conto è avere lo strumento tecnologico, non c'è partita, è un riequilibrare il rapporto tra uomo e macchina. Grazie Pier, a domani. Ciao. A domani c'è il GR, noi restiamo qui, resta anche Luca Marelli 800 24 00 24, e vi raccontiamo anche il primo tempo di Atalanta e Roma che stanno per scendere in campo. Tutti convocati. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. Tutti convocati. Sentivo dire arriva Vidal, arriva Sanchez, arriva tutti i bei nomi che si è fatto, sono andato laggiù al cancello, mi sono messo ritto sulla grata del cancello, ero lì a guardare se arrivavano e loro a me non hanno promesso niente. Poi è toccato darmi un pizzicotto e dire guarda, se no poi rischiavo di cascare da quei 2 metri d'altezza con l'età che ho e mi facevo male. Per quanto riguarda Keita, ci ho sempre puntato d'occhi chiusi, probabilmente ci avrei puntato anche per questa partita. Poi non potevo anteporre un giocatore a tutti quanti gli altri miei ragazzi perché avevo visto nell'ultima settimana degli atteggiamenti che non mi piacevano, allora ho deciso alla vigilia di escluderlo perché tutti importanti ma nessuno indispensabile. Io però le chiedo di Kalinic, quanto è deluso? Credo che per la società e anche per il ragazzo, credo che prima concludiamo questa situazione meglio sarà. Per quanto riguarda la professionalità e la serietà, certi comportamenti sarebbero dovuti andare in questa direzione e quando non ci sono è chiaro che sicuramente qualcosa che non è andato c'è stato. È mancato un po' di riconoscenza nei confronti della società e anche della città. C'è stata una mancanza di rispetto nei confronti dell'allenatore, dei compagni. C'è chi gioca per la maglia, c'è chi gioca per altri valori, i nostri valori sono altri. Credo che il ragazzo sia soddisfatto, visto che credo che vada a prendere il doppio di quello che prendeva Cagliari. Quindi in bocca al lupo. Allora, questa era la carrellata di quelli che hanno avuto a che fare con gli ammutinati di questo calciomercato, Inzaghi, Pioli, Giulini, con in testa Spalletti e le sue attese deluse del mercato, colpa dei giornalisti, chissà, poi ne parliamo dopo il traffico. Allora, 800 24 00 24, 4 minuti e 57 secondi sul cronometro, 0-0 tra Atalanta e Roma, bella partita. Prima occasione per l'Atalanta con il Papu Gomez, parata a terra da Allison, poi la risposta con un diagonale rasoterra di Dzeko, palla che si è persa sul fondo, ma c'è grande ritmo e grandissima intensità. C'è qui Luca Marelli con noi, c'è Pierpaolo Marino al telefono, ciao direttore. Ciao, buonasera a tutti. Allora, intanto so che vi conoscete. Infatti volevo approfittare, dopo 12 anni finalmente posso salutare direttamente che Marino. Che carrabbata, Un abbraccio. No, dopo... ma perché 12 anni? A questo punto lo spieghiamo, perché altrimenti a casa... Perché ero l'arbitro di Avellino Napoli della finale di Serie C1 di 12 anni fa, 2005. Non è andata benissimo, direttore, ma possiamo perdonarlo. Ma sì, non era colpa sua, naturalmente. Va bene, senti, cosa ne... io penso questo sul tema degli ammutinati del calciomercato, e cioè penso che su questo tema siano tutti un po' ipocriti, cioè io credo che poi alla fine vada bene alle società, perché una volta sei vittima, una volta sei carnefice, vada bene agli allenatori che telefonano ai giocatori, vieni qui, vada bene ai giocatori ovviamente, vada bene ai procuratori, non lo so, direttore. Io la vedo in un modo particolare, perché... ne faccio una questione di bilanciamento nel rapporto fra società e giocatore, cioè di una regolamentazione, quella del lavoratore subordinato, previsto come figura per il calciatore, che non regge più, perché hanno anche un contratto tipo che non dà alla società degli strumenti adeguati per difendersi quando accadono questi ammutinamenti, cosiddetti ammutinamenti, perché il provvedimento che bisognerebbe prendere di fronte a una inadempienza così grave è chiedere la risoluzione del contratto, ma questo premierebbe il calciatore che andrebbe a riprendersi il cartellino, cioè quindi sarebbe come quello che fa dispetto alla moglie, no? E quindi non puoi far altro che delle piccole riduzioni di compensi per il periodo che loro non si mettono a disposizione, e queste fanno il solletico ai giocatori. Ma c'è una società che però non ha mai fatto, diciamo, non ha mai fatto pressione, non è mai andata a cercare un giocatore a un anno dalla scadenza del contratto dicendogli stai lì, stai fermo? No. Il problema è che quando lo fa uno lo fanno tutti, capito? Il problema è pensare che il peccato di tutti non sia peccato, perché poi in realtà andare a disturbare un giocatore che è sotto contratto è vietato dai regolamenti. Poi ci sono degli agenti che naturalmente fanno il loro mestiere e non è mai il giocatore direttamente, ma sono gli agenti che andando magari a parlare di altri giocatori mettono in mezzo anche altri assistiti, insomma, quindi la cosa è difficile da governare. Però se ci fosse per esempio una penale risarcitoria da poter applicare anziché la rescissione del contratto, che sarebbe un vantaggio per i giocatori, una penale risarcitoria grave a carico dei giocatori se si rendono inadempienti in maniera così grave, io penso che già le società sarebbero maggiormente protette. Certo, ma fa bene Lotito tenere duro anche a rischio di perdere dei soldi, e in passato gli è capitato. Ma sì, ma Lotito è particolare, non si può dire se fa bene o fa male. Ma è un esempio che dovrebbero seguire o no? Ma non è quello l'esempio, no. Perché poi magari a Lotito gli va bene, ad un altro magari gli si fa perdere il patrimonio della società. Le società poi vanno anche amministrate con diligenza, e non sempre sono tutti padre e padroni come Lotito, quindi bisogna anche tutelare il patrimonio aziendale, perché quando ci sono questi colpi di testa sono giocatori che valgono dai 10 milioni in su in generale, e quindi bisogna anche manovrare con calma questa materia. Va bene i principi, ma alle volte secondo è meglio un'onorevole sconfitta. Sì, ci vorrebbe un contratto tipo più bilanciato, perché questo è sbilanciato a favore dei giocatori. Cioè io non vado a una partita che è un'inadempienza gravissima, perché il giocatore viene pagato per dare le proprie prestazioni. Sì, cioè, se uno di noi non viene a lavorare così... Se io non vado a una convocazione, non vado a una partita ufficiale o non vado a un amichevole, io devo pagare un risarcimento grosso alle società. Non è che le società mi devono rescindere il contratto e io me ne vado libero e mi prendo pure i 30 milioni del mio valore che non vanno più alla società. Altrimenti la multa con la riduzione dei compensi per la settimana in cui tu non ti metti a disposizione è ridicola, perché un giocatore... E poi finisce magari per pagare alla società che ti prende, proprio per dirla tutta. Ma poi nella misura del 50%, nemmeno tutto, di una settimana di un giocatore, cosa vuoi che valga? Poi la cosa devastante è che diventa ingestibile per l'allenatore il rapporto con il gruppo del giocatore. Quindi non ti sorprende che Spinazzola sia in tribuna intanto 0-0 dopo 10 minuti Atalanta-Roma? No, mi sorprende, perché Spinazzola l'ho portato io a Bergamo e avrebbe dovuto avere un comportamento più riguardoso nei confronti dell'Atalanta, perché l'Atalanta è una società che gli ha dato la possibilità di arrivare a questi livelli qui da nazionale, quindi non mi meraviglio, perché c'è un presidente come Percassi che tiene duro e lo fa in una maniera corretta, e dall'altra parte... Ma secondo te come va a finire? Va a finire va la Juve. Quindi alla fine va a finire così, anche se Percassi tiene duro. Che difesa hanno? Cioè non c'è la possibilità di dire bene, tu ti rendi protagonista di ai mal di pancia, paga 5 milioni di risarcimento danni, e a quel punto lì nessuno lo fa più. Senti, approfitto prima del traffico un minuto, Pierpaolo Marino, per chiederti cosa ne pensi del Napoli di ieri. La notizia secondo me non è tanto che abbia vinto e abbia vinto bene, quanto che Sarri abbia fatto un vero turnover. Sì, e questo lo dici giustamente, Giovanni. Io non mi aspettavo un turnover così importante, addirittura che coinvolgesse Mertens, che è il giocatore trascinante. È tenuto fuori Mertens, Albiola e Giorginio, cioè. Sì, Albiola e Giorginio ci può pure stare, però tre e con Mertens dentro non me l'aspettavo, e tra l'altro ha dato anche spolvero a Milik, che ha recuperato dopo il gol sbagliato contro il Nizza, ha recuperato morale in vista della prossima partita di preliminare. Ma comunque lasciami dire che è un Napoli che ha delle convinzioni, delle solidità che non sono quelle degli scorsi anni. Mi sembra ancora il Napoli del girone di ritorno dell'anno scorso, che ha conquistato il titolo parziale del girone di ritorno. Sì, quello dei 48 punti. Esatto, e quindi l'ho visto molto bene. Poi il Napoli era solito zoppicare agli inizi delle ultime stagioni e invece ha cominciato questa volta alla grande. È vero, Verona va valutato come avversario perché viene dalla B, non sappiamo ancora, il tempo ci dirà qual è il valore effettivo del Verona, però tutte queste vittorie messe insieme e il fatto di pensare alla sola partita di Pescara o di Sassuolo con cui erano iniziati i campionati scorsi fa pensare molto bene. Del resto credo sia stata la scommessa, confermando in blocco tutti, facendo il ritiro che ha fatto il Napoli senza andare in giro per il mondo ma stando in montagna. Grazie direttore. Prego, un abbraccio. Grazie anche a te. 13 minuti, 0-0, Atalanta-Roma, altra palla persa in questo momento dalla Roma, in ripartenza con contropiede che si apre per l'Atalanta, ma poi Gomez si ferma sulla fascia sinistra, dà tempo alla difesa della Roma di tornare e di piazzarsi. Partita che si sta giocando su grandi ritmi, un paio di occasioni per l'Atalanta, una per la Roma, risultato 0-0. Ci fermiamo, c'è il traffico, vi parliamo delle due milanesi, arriva anche Carlo Genta. Siete tutti convocati. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Vi presenta. Tutti convocati. Marotta, Allegri, qualche avversario dice che il Milan è costruito per vincere anche lo scudetto. Mi interessa poco se sia una strategia o se sia la verità. Sicuramente noi siamo tra le poche squadre a aver acquistato più di 10 calciatori, penso nel panorama europeo, e noi abbiamo bisogno prima di diventare squadra e poi di diventare squadra vincente, quindi non sento nessun tipo di pressione in questo senso. Credo che la Juve sia stata costruita per vincere negli anni, hanno speso quanto il Milan, qualcuno se ne dimentica. Dobbiamo tornare grandi, ma dobbiamo tornare grandi nel tempo, con il tempo e anche attraverso il tempo e il sacrificio. Il Milan ha fatto una buonissima campagna acquisti e sicuramente Montella saprà poi riuscire ad assemblarli. Io sono tranquillo perché ho una squadra forte, capiterà anche di perdere qualche partita, ma sono sicuro che i nostri avversari dovranno sputare tutto il sangue sportivo. Intanto 16esimo minuto, 0-0 Atalanta-Roma, 61esimo minuto a Londra, il Chelsea vince 1-0 con il Tottenham, gol di Marcos Alonso al 25esimo del primo tempo. Ciao Carlo. Buongiorno Giovanni e buongiorno al professor Marelli. Professor Marelli che è stato convocato perché oggi ci sono tanti che chiedono delucidazioni sul VAR, ma abbiamo un anno davanti per imparare. A me sembra una parolaccia, ma comunque va bene, accettiamola così. No, accettiamo intanto perché ci fa vedere rigori come quelli di ieri che c'erano, non erano stati dati. Certo. Quindi, no, e quindi l'errore viene corretto. Ben venga, ma aveva ragione Pierluigi Pardo prima, secondo me, a dire ad esempio guardate che sarà azzerato l'errore sul fuorigioco. No, non è vero. Ed è tanta roba, insomma, vedere un gol in fuorigioco, gol io in fuorigioco sarà impossibile. Sì. No, assolutamente, quello è impossibile, insomma. Però saranno comunque qualche azione. Quanti ne ricordiamo di gol in fuorigioco di quelli che hanno fatto la storia del calcio? Qualcuno, Qualcuno sì. Quindi insomma, già è tanta roba. Mi ricordo roba. Un Juventus-Real Madrid, finale Coppa Campioni. Anche se, io lo dico per te, è vero che era un'altra era geologica televisiva, non esiste una singola immagine in cui si veda chi calcia e Mijatovic in non posizione sono così di fuorigioco. Attento. È il primo episodio che ho avuto in mente. Era un'altra era geologica, hai perfettamente ragione. Allora, abbiamo anche Aldo Serena che saluto. Ciao Aldo. Ciao a tutti voi. Aldo. Allora, ciao, Aldo. Facciamo una cosa veloce a tutti e due. Carlo Genta e Aldo Serena, stiamo parlando del cantiere aperto di Inter Milan. Sì. Di dire una cosa però che fa venire la pelle d'oca a Marelli e alla maggior parte degli ascoltatori. Vai. Per me il gol più bello della storia rimane la mano degli ospiti. Ah, certo. Io questo l'ho sempre dichiarato pubblicamente, non mi tiro indietro. Quindi questo per chiarezza. Ho già chiamato i carabinieri. Sì, no, ma più che altro vai a dirlo agli inglesi. Allora, glielo dico volentieri, gliel'ho detto anche volentieri. Cantiere aperto Inter Milan, Aldo Serena. Chi ha ragione dei due? Cioè Spalletti a dire che l'Inter va bene così e i giornali l'avevano illuso sui grandi nomi, o Montella a dire che chi dice che il Milan gioca per lo scudetto lo fa per interessi propri. Chi è che dice più la verità dei due, Aldo? Ma io penso che Montella dica la verità. Montella non credo abbia in mente lo scudetto. Penso che sia un Milan da prima posizione da Champions League, e Spalletti secondo me dice forse una mezza bugia, perché quando è arrivato all'Inter probabilmente qualche promessa su qualche campione gliel'avevano fatta. Sì, anche perché io lo dico a tutti e due. Allora, questa sera giocano Skriniar, Dalbert, Vecino e Borca Valero. La mia domanda è, tutti insieme, cioè uomo su uomo, quanto valgano più di Murillo, Nagatomo, Kondogbia e Joao Mario, Aldo? Esatto, Skriniar è stata una lieta sorpresa, ha fatto molto bene fino ad ora e si è subito inserito con una certa fisicità, ma anche con immediatezza nei movimenti difensivi. Borca Valero è un giocatore ormai consolidato su Vecino. Io insomma, sì, ecco, Joao Mario non è molto diverso da questi, insomma, tutto sommato, secondo me, anche se all'Inter ha fatto partite alterne, a volte ha fatto vedere grandi cose, a volte veramente partite sottotono, con una scarsa voglia. Carlo? C'è un salto di qualità, però ecco, c'è anche qualche incognita. Carlo? No, ma io parto da un presupposto sull'Inter. Allora, l'anno scorso, di questi tempi, tutti quanti, compreso Marelli, tu, io, Serena, eccetera, eravamo qui a dire che l'Inter era una squadra competitiva per lo scudetto. Poi i giocatori sono squagliati insieme alla società, hanno avuto un comportamento vergognoso e continuo a ripeterlo tutte le volte nella seconda parte della stagione, proprio il contrario della professionalità, però comunque rimane una base di buoni giocatori. Ora, abbiamo fatto in questi giorni, Giovanni lo sai bene, la griglia di partenza del campionato, queste cose eccetera, prima Juventus, secondo Napoli, abbiamo visto ieri sera tutte e due, confermiamo la nostra idea. E l'Inter può stare terza? L'Inter può stare terzo, il Milan può stare terzo, comunque seconda fila alle milanesi. Io vedo indebolita la Roma perché secondo me è fondata su una serie di scommesse, e se vince queste scommesse vale quella dell'anno scorso, però prima deve vincerle. Ma tu sei d'accordo, Aldo, che oggi sulla carta 20 agosto, tra l'altro mancano 11 giorni alla fine del mercato, le milanesi siano davanti alla Roma? Sì, anche perché c'è l'incognita della Roma, dell'allenatore nuovo, che quindi ha idee diverse da Spalletti, e quindi anche i giocatori avranno bisogno di tempo per poterle assimilare, quindi e potrebbero perdere punti preziosi in avvio di campionato, e quindi io penso che Inter e Milan, sì, parliamo sulla carta, perché così, perché poi i fatti a volte... Sì, siamo ancora al gioco di fine estate, giocando. Si smentiscono in fretta, ma io penso che Inter e Milan siano in linea con la Roma, sono molto di più. Kalinic, che domani fa le visite mediche, è l'uomo giusto per Montella? Con André Silva potrebbe anche coesistere, cambiando modulo, però cambiando modulo probabilmente Suso non sarebbe più sull'esterno destro, come invece ha fatto fino ad ora. A me piace tantissimo quella catena di destra del Milan, che si conti Suso, veramente appassionante, perché giocano come fossero insieme da sempre, hanno un'immediatezza di passaggio, si muovono in sincronia, e da quella parte io non cambierei nulla. Però ecco, dovesse arrivare Kalinic, André Silva non... Cioè, se fanno 3-5-2 giocano tutti e due, altrimenti il titolare lo fa Kalinic. Credo proprio di sì. Carlo? Ma io è tutto... Riflessione, perché Sheva ha detto l'altro giorno, tanta confusione nel mercato, io non sono d'accordo, però diciamo, se vogliamo ragionare su un doppione, ragioniamo sui 40 milioni spesi per André Silva. Sì, no, ma André Silva comunque è un giocatore di grande talento, un giocatore molto giovane, è un giocatore che magari tra un anno vale il doppio, quindi secondo me è un investimento che in prospettiva futura è un investimento corretto. Kalinic è esattamente il prototipo del giocatore, poi sono stati fatti mille nomi, no? È esattamente il prototipo del giocatore che si arriva a Montella, cioè il centravanti con quelle caratteristiche lì. Ad esempio, Aubameyang, più forte di Kalinic in valore assoluto, secondo me quelle caratteristiche non le aveva. Non a caso il Milan ha cercato lui, non so se possono giocare insieme, questo lo scopriremo vivendo, però da un punto di vista tattico, secondo me è esattamente il giocatore che serviva al Milan e che mancava al Milan. Andrea Silva è più uno stoccatore finale, bravissimo per ora, in area di rigore, anche se 40 milioni sono stati, insomma, è un esborso notevole, ecco, secondo me, ecco, non so se li valeva tutti. Certo è che in questo momento è un progetto di campioni, in prospettiva può essere 40 milioni, è una cifra sostanziosa, secondo me è una spesa grossa. E Kalinic invece è un giocatore che lavora più a tutto tondo, lavora più per la squadra, va incontro alla palla, può anche giocare con un'altra punta, secondo me Kalinic più di André Silva per ora. Intanto vi racconto che la Roma è andata vicina al vantaggio, 23 minuti, pallone filtrante per De Frel che è entrato in area di rigore leggermente spostato sulla destra, ha provato un rasoterra sul primo palo, palla che è finita sull'esterno della rete. È una Roma che mi sembra, Luca, stia piano piano prendendo campo dopo aver iniziato oggettivamente un po' in difficoltà. Sì, all'inizio ha subito molto il pressing dell'Atalanta, adesso sta cominciando un po' a uscire. Però siamo a inizio campionato, sinceramente io su queste partite faccio affidamento molto poco, conta secondo me solamente i punti che verranno presi alla fine, perché non si riesce a capire. Che non sono pochi, sono 6 punti. Allora io saluto e ringrazio Aldo Serena, ciao Aldo, grazie. Ciao a tutti voi. Allora, c'è chi dice che non bisogna capire niente di calcio per considerare la mano di Dios il gol più bello della storia. Questo è per te. Poi Andrea che riprende un discorso fatto prima con Pierpaolo Marino sugli ammutinati del mercato, e dice l'unica soluzione sarebbe una squalifica di 3 o 6 mesi. Secondo me no, perché questi sono pronti anche a perdere una stagione, l'ultima, prima della scadenza, pur di andare via alle condizioni nelle squadre che vogliono loro. Quindi secondo me nemmeno una squalifica di 3-6 mesi. Sai che a me piaceva l'idea di Marino di inserire nel contratti proprio delle penali molto sostanziose. È vero che non si può controllare il rendimento del giocatore in campo, però perlomeno il giocatore eviteremmo di vedere certificati medici per dissenterie, francamente, o per stress da mercato. Stress da mercato che abbiamo scoperto esiste lo stress da mercato che non fa dormire di notte. Ci fermiamo, abbiamo ancora un quarto d'ora dopo il meteo. Parliamo anche dell'incredibile voce che sta girando del Manchester City pronto a pagare 300 milioni di euro la clausola per portarsi Messi a casa e strapparlo al Barcellona. Ne parliamo con Filippo Maria Ricci. Intanto vicinissima l'Atalanta al vantaggio, 25esimo minuto, sinistro, quasi un rigore in movimento, palla sopra la traversa. Arriviamo subito. Bene, allora siamo tutti convocati. Tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Convocati. Allora, ancora 0-0, 26 minuti 50 secondi, Atalanta-Roma, 0-0, come diceva durante il meteo Luca Marelli, squadre piene di buchi ancora, ma io credo sia fisiologico per l'Atalanta un po' meno, ne abbiamo parlato prima con col direttore del Corriere dello Sport, invece per quanto riguarda la Roma, che sapeva da giugno che avrebbe perso dei giocatori importanti e non li ha ancora sostituiti. Chissà cosa deve fare Carlo il Barcellona se davvero va via Messi, eh? Filippo Maria Ricci intanto, ciao. Filippo, non scherziamo. Messi da Barcellona non va via. No, qui non c'è niente da scherzare, ragazzi. Qui non c'è niente da scherzare. Allora, no, io alcune riflessioni intanto. Diciamo, c'è questa voce che arriva dalla Francia, no, da Canal Plus, mi sembra già smentita dall'Inghilterra, che dice che potrebbero pagare la clausola. Ricordo qualche smentita anche su Neymar. Certo, no, su Neymar c'era il vicepresidente economico che ha detto che resta al 200%. Certo. Quindi Petagna ci ha provato, ancora 0-0, palla deviata in calcio d'angolo. Prego, Petagna, Filippo. Il Diego Costa nostrano. Sì. Detto questo, la clausola non è proibitiva, per quello che è il mercato del 2017, perché sono solo 300 milioni, quindi sono solo 78 in più di Neymar, certo, che vale sicuramente. Vuoi non avere 300 milioni da spendere? Esatto, non è proibitiva, nel senso che allora se abbiamo fatto questo discorso anche con Carlo il tempo addietro. Se vuoi che un giocatore non se ne vada, metti la clausola da 1 milione e arrivederci, grazie, no? Come per esempio tutti i giocatori della Roma, da 1 miliardo, sì. Sì, 1 miliardo, sì, certo. No, Asensio 500 milioni. Esatto, no, tutti i giocatori del Madrid danno dai 500 in su, eccetera, no? Quindi allora lì, in quel caso, sono clausole inattaccabili. Sterilizzi la clausola, dai. Detto questo, c'è un problema più grave, cioè sono due problemi più gravi. Uno, che Messi tra 4-5 mesi se ne può andare via gratis, cioè ovviamente sarebbe a partire dal giugno prossimo, dal luglio, diciamo stagione 18-19, però quando, no, si chiuderà la finestra di mercato di gennaio, il ragazzo potrà firmare gratuitamente. Perché? Perché contrariamente a quello che noi avevamo detto, e che però ci avevano detto in primis il presidente Bartomeu, Messi non ha ancora firmato il suo rinnovo. Questa mi sembra la menzogna è grave, perché non è che l'ha detto a noi, diciamo, ci abbiamo creduto, è che lo ha detto in due interviste e pubblicamente, e non si può, a me sembra piuttosto grave dire che è un giocatore poi del calibro di Messi ha firmato un contratto quando non lo ha firmato. Hai capito, Carlo, per questo c'è poco da ridere, eh? No, allora io parto dal presupposto che Messi dal Barcellona non si muoverà mai, ma anche perché non conviene a nessuno, quella è casa sua. Sì, sono con te. All'età che ha, che non è più verdissima, se avesse dovuto farlo l'avrebbe fatto prima, non adesso. Quindi non è più tempo per lui, come parafrasando Ligabue. Secondo me Messi inchiostrerà il contratto con il Barcellona. Adesso abbiamo parlato di questo doppio matrimonio, no? Si è sposato e risposerà al Barcellona fino alla fine della sua carriera agonistica. E non vedo alcun'altra alternativa, nonostante la depressione circolante a Barcellona, come Filippo può confermare. Ma magari è proprio quella, Esatto, attenzione però Carlo, perché sono due cose. Uno, che dei due matrimoni, uno sì l'ha detto, gli anelli sono stati scambiati, voglio dire, la cerimonia l'abbiamo vista tutti, c'è stata. L'altra no, però. È come se noi ci avessimo detto, si sposa con Antonella e poi però queste nozze non si possono celebrate. E invece lì sono state celebrate. E le seconde nozze invece non sono ancora state celebrate, probabilmente si celebreranno. Intanto è in vantaggio la Roma, gol di Kolarov su calcio di punizione, 31esimo minuto, lo raccontiamo. Allora, calcio di punizione. Bentornato Kolarov. Ecco, calcio di punizione a circa 22-25 metri dalla porta di Berisha, leggermente spostato sulla destra, quindi l'ha calciato Kolarov, che è un sinistro. Ha calciato una palla a raso terra, nemmeno violentissima. Sì, ma ricordato i calci punizione di Rijkaard. Ma ha tirato sotto la barriera, che è saltata, e ha sorpreso Berisha sul primo palo. E quindi Berisha poi ci è arrivato in ritardo, quindi 1-0 per la Roma, gol di Kolarov. Prego Filippo. E riprendiamo, no, da queste doppie nozze, allora, diciamo, che si inseriscono, diciamo, il discorso della non firma si inserisce su una situazione di depressione autentica al Barcellona e anche autodistruttiva. E poi per me la notizia del pomeriggio è questo tweet incendiario di Joan Laporta che torna in campo dicendo via Bartomeu immediatamente. Si sa che adesso dovrebbe arrivare a giorni o a settimane una mozione di censura contro l'attuale dirigenza. È chiaro che se la porta scende in campo così, in maniera così pesante, le cose si stanno muovendo, anche perché nel tweet fa riferimento a Messi. È chiaro che lui cavalca oggi questa ondata emotiva di questa notizia che arriva dalla Francia su Leo. Però ci sono parecchie cose che non funzionano, questo mercato fatto in maniera completamente sbandata, no? Offrendo milioni di qua e di là, facendosi dire di no più o meno da tutti, prendendo un giocatore in Cina a 40 milioni. La situazione è quella che è abbastanza caotica. Nel caos tutto può succedere. Ah, nel caos magari gioca anche il Barcellona. Stasera, sì, stasera quarto, gioca. Tra l'altro con... La cosa più bella è che per me... Sembrano tutti poco interessati alla questione. Beh, però c'è molta... Lì invece c'è l'emotività, quella reale, dagli attentati. Noi stiamo parlando del nulla, esatto. Confronto a quello, ovviamente. No, certo. E per me la cosa più bella è che il Barcellona gioca questa sera senza i nomi dei giocatori sulle maglie, ma mettendo, no, il nome della città, Barcellona, per me è un'iniziativa molto molto bella e ci sarà ovviamente grande commozione, grande emotività. Vediamo come ne escono, la partita è col Betis... E anche quello può essere interessante, insomma, Valverde ha perso le sue prime due partite, c'è anche una questione tecnica, chi gioca al posto di Suarez, che sarà fermo per un mese, sono tante le questioni che ruotano attorno al Barcellona. Adesso, sì, c'è da perdere la testa, sì, sì, sportivamente anche, parlando ovviamente. Sì, esatto, e girino anche 300 milioni, lo vedremo. Ti ha convinto Carlo? Sì, entro certi limiti, con tutto il bene che voglio a Filippo Maria Rizzi, quella... No, è semplicemente una battaglia politica, una lotta politica, come abbiamo visto mille a Madrid tra Calderón e Florentino Perez, e lì tra la porta e i concorrenti, che poi sono, se guardi bene, sono sempre gli stessi nomi che circolano. Quindi il Barcellona è una squadra, secondo me, da, non dico da rifondare, però da ristrutturare in maniera profonda. Ci sono dei senatori, dei capigruppo, devono essere bravi a cambiare pelle in corsa. In questo momento non sono così bravi, nel senso che lì poi si va presto a cadere in depressione a Barcellona. Sì. Perché vogliono vedere il bello, vogliono vincere, vogliono tutto, eccetera. E poi non sopportano di essere dietro al Real Madrid, che non è semplice come condizione di vita. No. Per un club come il Barcellona, con la storia che ha e con tutto quello che significa, giusto Filippo? Esatto, sì, questo è il grande peso. È il grande peso. Ha perso due classici, 5-1, via la Supercoppa e vediamo. Vince questa liga, insomma, ecco. Quello è chiaro che è durissimo. Hanno vinto 3 Champions in 4 anni dall'altra parte. Per il Barcellona è una ferita dolorosissima. Grazie Filippo. A voi, ciao, ne grazie, riparliamo. Grazie ciao. Filippo Maria Ricci, ma ne riparliamo sicuramente. Intanto 35 minuti, 1-0 per la Roma sull'Atalanta, il gol di Kolarov su calcio di punizione, ve lo abbiamo raccontato praticamente in diretta al 31esimo minuto. Gol pesante, gol pesantissimo e che viene dal mercato che abbiamo tanto criticato prima. Gol furbo, una punizione battuta sotto la barriera. Ti ripeto, mi ha ricordato alcune punizioni di Rijkaard che batteva questa maniera dal limite. Sì, anche Pirlo, la maledetta sotto, però Pirlo calciava un po' più forte. Sì, esatto. Qui secondo me c'è anche un po' di complicità del portiere dell'Atalanta Berisha. Allora, Roberto da Milano, Roberto. Innanzitutto bentornati, complimenti sempre per la trasmissione, caro gente, anche a lei. Vai. Grazie, troppo gentile. Riguardo al Milan, speriamo che sia la volta buona, che sia un anno importante, che ha fatto una rivoluzione, appunto ho sentito prima le dichiarazioni di Montella, speriamo che sia veramente l'anno giusto. E riguardo Cutrone, cosa ne pensate di Cutrone? Io lo vedo, oddio, diventa vivaio anche lui, d'accordo, adesso ci costruiamo i Cavic. E se a fine calcio, a fine agosto c'è qualche sorpresa ancora, insomma, ecco. Però diciamo cosa che ne mosaico... pensiamo di Cutrone, Carlo? Sì. Che è un ragazzo del vivaio, i ragazzi del vivaio del Milan in questi anni. E io sottolineo sempre il lavoro di Filippo Galli e sottolineo gli investimenti che sono stati fatti dalla società nel settore giovanile, che stanno producendo frutti in questo periodo. È un ragazzo del settore giovanile, è un buon giocatore, vediamo a che livello può arrivare, non bisogna mettergli troppa pressione addosso, perché la pressione soprattutto a San Siro ti schiaccia e abbiamo vari esempi da De Sciglio in su o in giù, fino ad arrivare a Locatelli che sembrava un nuovo fenomeno e poi è chiaro che ha un ridimensionamento, però in questo momento la scelta di Cutrone mi sembra intelligente, anche perché è un giocatore che si conosce, che Montella conosce, che i compagni conoscono, e quindi insomma sarebbe assurdo far giocare chi è arrivato ieri, no? Certo. Allora, ho qualche altra domanda da far fuori sul VAR con Luca Marelli, abbiamo ancora 4 minuti. Allora, si può correggere un gol segnato su calcio di punizione che non c'era? No. Quindi la punizione è una valutazione dell'arbitro, non può essere messa in discussione dai collaboratori dell'arbitro. Quindi eventualmente il VAR analizza dal momento in cui viene calciata la punizione. Esattamente. Tutto ciò che accade prima, non avendo portato a un calcio di rigore, che è una delle casistiche, esatto, non è oggetto del VAR. No. E poi c'è qualcuno che ha notato questa cosa, adesso io cerco il messaggio, e cioè se ieri Maresca avesse fatto battere l'angolo, sarebbe stato possibile una volta battuto l'angolo tornare indietro? No, è proprio per questo che bisogna stare molto attenti e bisogna evitare di far battere troppo in fretta in queste circostanze. Ieri Maresca ha fatto un grosso errore, che è stato quello di portarsi subito in posizione per la battuta del calcio d'angolo. In quel caso bisogna fermare immediatamente quando si ha un bip, quando si ha un check dal VAR o si chiedono aiuto al VAR, proprio per evitare che si inizi una nuova azione. Una volta che è iniziata una nuova azione è difficile, anzi impossibile tornare indietro. Però è diverso rispetto il paradosso a quello... è che una squadra che ottiene un calcio di punizione e ha l'interesse magari a batterlo subito perché la difesa avversaria non è schierata, di fatto si brucia la possibilità di avere il VAR su un eventuale altro tipo di sanzione, in questo caso disciplinare magari. Sì, però considera che queste situazioni sono molto molto rare, cioè diciamo che ce n'è una. Ma siccome capiterà prima o poi, noi ce lo chiedono. Ci sarà la casistica, farà parte della nuova casistica dell'errore arbitrale. Ecco, Carlo, diciamo così. Se hai curiosità. Curiosità ne ho mille, se per me parlate ostrogoto. ma ti devi abituare. No, ma io mi abituo volentieri, ci mancherebbe altro. Poi magari rivedremo la Verona vincere lo scudetto, come sostengono alcuni, cosa che non capiterà mai. Se però, c'è anche chi ci dice di sottolineare che la Juve non prendeva un rigore contro da 31 giornate in casa, esatto, sono bastati 35 minuti dicono, del VAR, ma mi sembrano sciocchezze, se devo essere sincero. Giovanni, sono gli stessi che dicono che adesso Cagliari e Verona torneranno a vincere lo scudetto, non diciamo sciocchezze. Allora, c'è un altro amico che chiede se per un problema tecnico informatico la VAR si inceppa, cosa succede? Quello che succede anche nel tennis, capita ogni tanto che venga chiamato un occhio di falco, il occhio di falco non ha ripreso la pallina, non c'è nulla e rimane la decisione del campo semplicemente. Ecco, quindi continua a decidere l'arbitro, semplicemente si fa che il VAR non esiste. Però sarà impossibile, però perché ci sono 10-12 inquadrature, a meno che non salti proprio completamente alla regia, un'immagine ci sarà sempre. E poi un'altra domanda è se analizzando un'azione che ha portato o non portato a un rigore si scopre che invece c'è una simulazione, che cosa succede? Si inizia con calcio e punizione indiretto a favore della difesa e ammonizione dell'attaccante che si è simulato. Che è l'unico caso in cui può arrivare un'ammonizione, perché altrimenti muove solo sulle espulsioni. Sì, però può anche esserci il caso inverso, cioè che viene colpito da espulsione un giocatore che in realtà andava solo ammonito. Ci può essere il check in quella circostanza, rivedere l'azione e trasformare il cartellino rosso che avrebbe lasciato immeritatamente, ingiustamente, una squadra in inferiorità numerica, anzi con un uomo in meno, perché può anche essere che portasse a 10-10, è trasformato in un cartellino giallo per evitare che ci sia una errata interpretazione. Mentre l'espulsione con secondo cartellino giallo non è materia. Assolutamente no. Quindi non capiterà, amici miei, rassegnatevi, se anche il secondo giallo è una bestialità arbitrale, ve lo tenete così com'è e andate al Bar Sport a discutere, che tanto non chiuderà. Grazie Carlo! Grazie a voi, siamo a casa. A domani alle due che riparte, avremo tutta la prima giornata del campionato di Serie A da discutere. Io sto prendendo tempo perché c'è una punizione interessantissima per l'Atalanta, siamo davvero al limite dell'area di rigore, posizione centrale. Intanto comincio a salutare Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Valeria Bernardi e Roberta Frisani, che si sono alternate in regia. Noi con tutti i convocati weekend torniamo domenica regolarmente alle 17, poi dalle 14 domani è in diretta Carlo Genta con Luigi Pardo, punizione battuta dal Papu Gomez, parata da Alisson, 1-0 per la Roma, 42esimo. Ciao a tutti. Ciao. Abbiamo visto abbastanza, ciao a tutti. Saluti.